Anche tu puoi fare tutto quello che vuoi, non ci pensare, fallo ancora e non ti fermare. Hai tanta voglia di dire tante cose, hai tanta voglia di fare tante cose, ma poi rifletti e ci ripensi, e non lo fai perché ci ripensi. Non cogli l'attimo e non lo sai, che quell'attimo non tornerà, sparirà dietro di te e come un'ombra poi ti seguirà per sempre. Conta fino a 10, prima di parlare, prima di parlare. Ora che lo sai, puoi dire quello che vuoi, adesso anche tu puoi fare tutto quello che vuoi. Ora che lo sai, non ci pensare prima di parlare, fallo ancora, ancora e non ti fermare. Rifletterci troppo, ascolta il tuo istinto e cogli. Sei chiesta se lo sapevo, glielo dicevo, invece no, ho pensato troppo. Quante volte ti sei detta ora lo faccio, poi ci hai pensato e ripensato e non lo hai fatto. Ora che lo sai, puoi fare tutto quello che vuoi. Vuoi fare tante cose, poi ci pensi e ci ripensi e non fai più niente. Il tempo passa e tu ci pensi, non cogli l'attimo che fugge e non ritornerà. Questa è la tua realtà, segui il tuo istinto, prendi il controllo.